dalla letteratura circostante. Se ricorso a inserti in prosa nei libri di poesia di questi anni è notoriamente uno dei fenomeni più visibili, il ricorso a una poesia letterale guadagna a sua volta posizione. Mentre le interazioni tra poesia e prosa sono, come abbiamo visto, sempre più sollecitate, prende forma negli ultimi 10 anni una tendenza che si dichiara di ricerca e si definisce a partire dall'insofferenza per il singolo e l'aggrappo. Autori legati al laboratorio sperimentale del GAM, in collegamento con esperienze di post-poesia francesi e americani, amano parlare di se via negazione. La letteratura che ci circonda, la letteratura circostante, è quella che spesso vediamo nelle librerie definibili generaliste, così come esiste una distribuzione generalista, una TV generalista, eccetera. Ossia, a me è capitato recentemente di entrare in un paio di occasioni in librerie di catena, con ambienti piuttosto vasti, una stanza più o meno poteva essere grande come questa, e vedere metri e metri e metri e metri di scaffali esclusivamente dedicati non soltanto alla narrativa, ma alla narrativa di genere, e non di un genere, di più generi, ma soltanto di un genere, cioè metri e metri soltanto di fantasy, metri e metri soltanto di gialli, eccetera, che è comunque un elemento da tenere in forte considerazione, giustamente ha fatto, e bisogna rendergli assolutamente merito, anche perché è stato sicuramente anche un lavoro in parte doloroso, Gianluigi Simonetti, l'aver affrontato tutta una serie di pagine e scritture di questo tipo. Però di fatto, fotografandole, difficilmente sfuggivo alla tentazione di usare una didascalia tipo Houston, abbiamo un problema, guardando questi metri e metri e metri e metri di questo tipo di letteratura, che appunto si fa divorare, e divora in qualche maniera non soltanto il lettore, ma la filiera intera del libro, perché se nel momento in cui ha un certo numero di lettori, un certo numero di scrittori, viene richiesto di aderire a un tot di regole, una grammatica di scrittura legata alla distribuibilità in queste catene, è evidente che l'esigenza della distribuzione libraria, e quindi di un funzionamento di catena così concepito, retroagiscano pian piano sul libraio, sull'editore e fino attraverso l'edito sulla mano di chi scrive, fino a costruire e costituire una forma media, a volte mediocre, se non quasi sempre mediocre, di scrittura e di avanzamento del testo. In poesia anche succede questo, a mio avviso, ed è successo ormai, è un vaso rotto molti anni fa, molti decenni addirittura fa, e in qualche maniera vorrei un po' accennare a questa cosa con un intervento che in realtà ha un po' cambiato titolo, che prende avvio da un frammento che Gianluigi Simonetti cita a pagina 158 della letteratura circostante, ovvero la difficoltà di andare avanti. Quindi sto arretrando un po' verso gli anni 70, che è un momento cruciale per la poesia contemporanea, un momento in cui alla chiusura della stagione, alla percezione della chiusura di un certo tipo di scrittura di ricerca, di sperimentazione, di avanguardia, cioè grosso modo coincidente con il 1968, segue un periodo, si dice, di ripiegamento delle forme, o meglio ancora di emersione dell'io, di una rinnovata soggettività. Il 1971 non è a caso l'anno dell'uscita del libro di Dario Bellezza, Invettive e Licenze, che un po' cambia appunto, o viene considerato come una spia di un cambiamento ampio di carta in tavola. Questa difficoltà di andare avanti è un po' il sentimento diffuso negli anni 70 rispetto alla condizione, alla percezione del contemporaneo da praticamente un po' tutti gli scrittori, perché appunto si è conclusa, o nella percezione generale sembrerebbe essersi conclusa, e purtroppo nella storiografia questa questa percezione è molto sottolineata e a mio avviso è una visione correggibile della realtà dei fatti, sembra essersi conclusa la stagione della sperimentazione, non si è ancora aperta quella stagione che negli anni 80 e 90 porterà a un conflitto frontale tra due versanti opposti e francamente incompatibili di visione della letteratura, il mito modernismo da una parte e la cosiddetta scrittura materialistica dall'altra, e quindi in questa fase interviene quello che abbiamo ascoltato dalla citazione giustamente fatta dal libro di Alfonso Berardinelli, una situazione da astro esploso in cui i poeti, non impedendosi la scrittura, diciamo aderiscono a una varietà di stili e di forme che sembrano dialogare quasi più soltanto con la propria idiosincratica scrittura piuttosto che con qualche linea di poetica generalmente condivisa o condivisibile. Sicuramente con un abbassamento, un allontanamento da qualsiasi tipo di teoria o comunque una riduzione, una rastremazione estremamente radicale, che lo dice Simonetti nel suo libro, della volontà, del desiderio di mettere in campo ragioni di poetica. Ebbene, la mia idea è un po' che a partire da queste osservazioni che fa giustamente Gianluigi Simonetti nel suo libro, soprattutto dalla fine degli anni 60, quindi dalla fine di quel decennio che io mi azzarderei a continuare a definire un decennio di esplosione di una sorta di cambio di paradigma, cioè sostanzialmente nel 1961 l'uscita dei Novissimi, e altri eventi che accadono anche in musica contemporanea in quegli anni, la nascita del gruppo 63 nel 1963 e tutta una serie di altri eventi, non ultimo anche le poesie, peraltro non accolte favorevolmente o non del tutto, il gruppo 63 di un'autrice straordinaria come Amelia Rosselli. Ecco, tutto questo che dà scintilla all'accensione di questo straordinario cambio di paradigma nelle scritture, che è appunto quello in forma di sé tutti gli anni 60, ecco, a partire soprattutto dalla fine di questo decennio, la complessità e la articolazione delle scritture e anche la conseguente difficoltà di traduzione di queste scritture quando queste scritture complesse vengano dall'estero, perché c'è un grossissimo lavoro di ricerca e di sperimentazione letteraria anche all'estero, in particolare in Francia, e la Francia uno dei luoghi con cui è maggiore dialogo l'Italia della ricerca letteraria. Ecco, questa difficoltà mette alcune generazioni, per via appunto dell'accelerazione degli stimoli che si ritrovano a attraversare, di fronte a un senso forse anche di schiacciamento, una condizione per certi aspetti di impasse, e quindi anche una difficoltà forte di aderire in maniera ingenua all'onda lunga del romanticismo, quindi a comunque un ritorno dell'io in senso diretto, immediato, appunto assertivo. O a maggior ragione aderire anche a forme, diciamo, lessicalmente derivate da una scrittura, diciamo così, pura, che era quella che appunto avevano già rifiutato i loro padri o fratelli maggiori, Mario Roversi e Leonetti nel secondo dopoguerra. Quindi la difficoltà di aderire a un lessico e a una scrittura di lunghissima addirittura eredità petrarchesca. Quindi in questa realtà ipercomplessa e frammentata della contemporaneità, che è ormai cosa ultra acclarata negli anni 70, dopo il decennio dei 60, la difficoltà di andare avanti è percepita in maniera molto acuta. Parole povere, come fa a scrivere e che cosa scrivere un io che non ha più la I maiuscola, che è frammentato e i cui frammenti sono circondati da un contesto culturale complesso, vasto, articolato. Pensiamo che soltanto che nell'arco di 7 anni, dal 1967 al 74, escono 5 opere capitali di Jacques Derrida. La voce e il fenomeno, della grammatologia e la scrittura della differenza sono del 67, Margini è del 72, Gla è del 74. Negli anni 50 l'altro Jacques, Lacan, sebbene poi tradotto più tardi in Italia, aveva messo addirittura in chiaro lo statuto frammentato del MUA a fronte dello statuto del flusso del soggetto dell'inconscio. E come poteva mettersi in sintonia con questo stato di cose una generazione che aveva 20 anni in quegli anni lì? Ci troviamo di fronte a un colossale problema storico, culturale, intellettuale, per certi aspetti anche politico, quindi con tutta l'eredità che il 68 portava con sé, e persone che arrivavano alla volontà di scrivere e di esprimersi in un periodo, in un momento cruciale della loro formazione, in cui appunto non c'era sostanzialmente, almeno a loro percezione, non c'era sostanzialmente nulla di facile. E soprattutto non era più disponibile quella letteratura con la L maiuscola che si rifaceva a forme, metri e modi che appunto il decennio precedente aveva demolito o pensato di demolire. Ora, giustamente Simonetti nel libro mette l'accento soprattutto sui termini del rifiuto di questo tipo di contesto, quindi una generazione che arriva giovane a quel contesto storico, culturale e oppone un rifiuto a tutto l'aspetto dell'avanguardia e all'impegno politico frontale. E nello stesso tempo però forse io inserirei anche, contribuirei con questo piccolo elemento aggiunto, una sorta di percezione molto forte di inadeguatezza da parte di quei ventenni, mascherato ovviamente da rifiuto. Cioè, se Bellezza scrive Invettive e licenze nel 1971 e il contesto letterario lo accetta, è perché difficilmente sia il poeta sia il contesto letterario sarebbero stati in grado di sorridere troppo davanti al senso di impotenza che evidentemente emerge da un certo numero di autori, tra cui Bellezza stesso, di fronte ai materiali ben diversi che vengono dal Verri, che pubblica dal 1956, e da Tel Quelle, che nasce nel 1960. Francia. Quindi a mio modo di vedere, come tutti i sistemi sottoposti a tensione, anche quel momento critico di passaggio 1968, 70, 71, poi 71 è un anno cruciale per motivi che Simonetti giustamente descrive nel libro, e vorrei fare una parentesi ma la farò tra poco. Ecco, come tutti i momenti di tensione e di torsione di passaggio, quello è un momento in cui di fatto forse per poter appropriarsi di quella complessità e di quella ricchezza culturale, intellettuale, filosofica che era stata prodotta nell'arco di un brevissimo e incendiarissimo, se si potesse dire, torno di anni, ecco, le persone che avrebbero potuto, le generazioni che avrebbero potuto forse appropriarsi compiutamente di quel panorama complesso sarebbero probabilmente venute più tardi. In quel momento lì era importante che l'astro esplodesse nella maniera più immediata e questo è quello che è successo. Altre forme d'arte si sono confrontate in maniera diversa con questa complessità, e anche la poesia stessa, e adesso ci arrivo, ma per esempio sul piano, addirittura spostando addirittura la percezione di questa situazione a un piano antropologico, è stato il teatro di ricerca, su cui chiaramente non possiamo soffermarci qui, da cui però dovremmo estrarre sicuramente la figura di Carmelo Bene, a misurarsi in maniera frontale e formalmente iper strutturata nel suo destrutturare tutto il discorso del linguaggio teatrale, a confrontarsi con questa contemporaneità così complessa, con questa destrutturazione dell'io, con questa difficoltà della parola frontale. C'è stato comunque, e qui veniamo appunto, salterò la parentesi perché non è possibile parlarne, proprio in quel decennio, il decennio dei 70 a questo punto, un numero di intellettuali, di poeti e di scrittori che della complessità e della ricerca letteraria che veniva non soltanto dall'Italia di alcune frange estreme e folli, ma anche dalla Francia, ci sono stati alcuni autori che, non vedendo necessariamente nella neoavanguardia un elemento vincolante, consideravano tutto quel decennio, il decennio precedente, il decennio degli anni 60, come una, tutta la sua complessità, quindi il discorso della frammentazione dell'io, il discorso della distruzione del discorso assertivo, eccetera, come una realtà aprente, cioè non come qualcosa che si chiudeva, ma come un inizio di qualcosa che probabilmente, questa è l'idea che condivido con diversi della mia generazione, che continua tuttora, come spesso si dice, come è stato detto da Friedrich Nietzsche a proposito della morte di Dio. La morte di Dio non è un evento che avviene e chiude, è un evento che è in corso nel tempo e quindi è un evento che si sviluppa nelle sue varie forme all'interno dello srotolarsi della storia umana. E quindi si sono misurati questi autori con la scrittura della complessità, con la frammentazione e anche con l'interazione tra i codici, per esempio mettendo assieme letterature arti visive, materiali verbovisivi, musica sperimentale, addirittura si parla di scrittura asemantica, avrete sicuramente probabilmente sentito parlare di questa asemic writing, scrittura asemica che non ha niente a che vedere con la letteratura, che si tratta di un ambiente esclusivamente legato al segno grafico, e sembrerebbe essere stato battezzato alla fine degli anni 90, in realtà il primo a parlarne a proposito della scrittura delle opere grafiche di Irma Blank, purtroppo autrice morta, artista morta recentemente, è stato Gillo Dorfless nel 1974. E di quali autori sto parlando? Adesso chiudiamo, era solo un accenno quello alla scrittura asemantica. Parliamo di un gruppo che si riunisce per esempio intorno alle figure di Corrado Costa, Giulia Niccolai e Adriano Spapo, fittamente frequentate non a caso anche per via delle edizioni Elia Lelia che lui curava, da un autore che alla genialità di Costa è stato senz'altro molto vicino, cioè Carlo Bordini. Carlo Bordini, di cui potete leggere un libro molto bello, Vuoto d'aria, che è uscito da poco per Mondadori, e poi c'è la sua opera forse maggiore, che è Costruttori di vulcani, che è uscito per Luca Sossella, e che è un autore secondo me proprio al margine della possibilità di continuare a scrivere in maniera assertiva, e però facendo tesoro di tutte le sperimentazioni che gli anni 60 avevano messo in campo. Io vorrei adesso semplicemente interrogarmi sul perché questa comunque generazione che è stata importante, io ho fatto soltanto pochi nomi, Costa, Niccolai, ce ne sarebbero molti altri da elencare, improvvisamente nell'arco di passaggio brevissimo di pochi anni sembrerebbe tacere, e quindi tra l'altro uscire un po' anche dai radar della storiografia letteraria. E se cercate in rete un testo che mi è capitato di scrivere un paio di anni fa, che si intitola Poesia per il pubblico, che rovescia intenzionalmente la dizione del libro di Bernardinelli e Cordelli, Il pubblico della poesia, troverete un'ipotesi che ho formulato a proposito di questa improvvisa scomparsa della sperimentazione dai radar e della storiografia letteraria e della prassi stessa di scrittura. E purtroppo qui bisogna parlare di una serie impressionante di mancanze. Che cosa succede? Che Vittorio Reta muore nel 1977, Calvino nell'85, Spatola nell'88, Filippini lo stesso anno, Porta nell'89, Manganelli nel 90, Carmelo Samonà nel 90, Corrado Costa muore nel 91, come Patrizia Vicinelli e Luciana Arbizzani, Miroglio lo stesso, e Tondelli anche, Tondelli è un caso magari a sé. Stefano Arrigo muore nel 92, Germano Bardi lo stesso, così come Silvano Martini, Gianni Sassi, grande artefice di Milano Poesia, quindi grande artefice dell'esperienza legata non soltanto alla sperimentazione, ma alla diffusione veramente a 360 gradi della letteratura anche più avanzata a Milano. Gianni Sassi nel 93, stesso anno in cui muoiono Giovanni Testori e Luigi Pasotelli, Paolo Volponi muore nel 94, Anceschi nel 95, Beltrametti lo stesso. E vado rapidamente perché avete capito dove sto andando a parare. Cacciatore muore nello stesso anno del suicidio di Amelia Rosselli nel 1996, Toti Scialoia nel 98, Vincenzo Accano nel 99. E ricordiamo poi che nel 1986 Emilio Villa, che è uno dei grandi mediatori, delle grandi colonne portanti della sperimentazione in Italia, a quale sono debitori non soltanto scrittori ma anche artisti contemporanei, prima di tutti Alberto Burri, era stato colpito da un ictus nel 1986, quindi era stato un po' privato dalla possibilità di parlare, era stato raggiunto una vera e propria afasia. Appena fuori dal cerchio degli anni 90, poi l'elenco degli scomparsi si moltiplicherebbe. Su questo terreno, che purtroppo è un terreno sparso di croci, si stende la impressionante politica distributiva delle grandi case editrici. Non ve le leggo, lo troverete appunto in questo intervento se siete interessati, una sintesi del catalogo degli autori usciti nello Specchio Mondadori, nella Collana di Poesia di Garzanti, nella Bianca Einaudi, a far tempo proprio da quegli anni lì, cioè dall'abbrivio inizio 80, fine 90. Che cosa trovano gli autori ventenni in quel periodo lì, quindi tra la metà fine degli anni 80 e la metà e la fine degli anni 90, i lettori ventenni in scaffale? Trovano autori che hanno completamente diciamo un altro sistema di riferimento rispetto alla ricerca letteraria. Per trovare di nuovo qualcosa di minimamente diciamo legato a quel clima, bisogna passare la boa degli anni 2000. Bisogna quindi far riferimento ad alcune date, il 2005 di Parola Plurale, per esempio, uscita per Luca Sossella, al 2006 del sito di cui appunto è stato detto che ho contribuito alla fondazione, gamm.org, che ancora esiste, sta compiendo 18 anni, quindi è quasi maggiorenne, al 2009 di un libro come Prosa in Prosa, di cui molto attentamente si occupa, e lo ringrazio, Gianluigi, nel suo libro, o al 2013 di un incontro intitolato ex.it, che in quell'ex voleva sia significare il moto da luogo latino, si viene comunque da un contesto italiano, sia un ex arrivederci, siamo ex italiani perché cominciamo a riferirci, a interessarci quasi esclusivamente di una scrittura che non ha smesso invece di fare sperimentazione e che è quella appunto che ci viene dalla tradizione anglofona e francofona, di cui Gamm appunto è stato uno dei principali traduttori dagli anni, dai primi anni zero in avanti. Vorrei fare molti nomi di autori che appunto ci circondano, circostanti, che fanno appunto sperimentazione oggi, ma non voglio assolutamente lasciare senza parole chi si vede dopo di me. Vi ringrazio.